Rio Grande, nell'ora in cui il cielo di stelle s'accende, per lei io cantavo canzoni d'amore. E poi fra un bacio e l'altro ci si ribaciava ancora. Pilare, però non mi importa, sapete bene.